Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sante Notar Nicola, parte ottava. Ritorniamo infine sul problema più importante, il denaro. Prenderlo ai ricchi, questa fu la conclusione. Ma purtroppo non c'era un'altra Fiat. Studiamo qualcosa, propose Piero. Ho già visto molti obiettivi possibili. Si tratta di controllare e vedere se ce la facciamo. Anche Danilo aveva già alcune idee. Girando continuamente come facevano loro, si notavano molte occasioni e ora era il momento di utilizzare queste conoscenze. Allora siamo d'accordo, concluse Danilo. Studiamo i piani d'azione per fare la grana, poi passeremo ad altri obiettivi. Per raccogliere i fondi bastiamo noi tre. Solo quando avremo il denaro sufficiente potremo essere liberi di pensare ad altro e correremo meno pericoli. Ci lasciammo con questa decisione. Tornai al mio lavoro, ma ormai non stavo più nella pelle. Diventavo ogni giorno più ansioso di cominciare. Stavo sempre con gli occhi aperti. Chissà, forse mi capitava di vedere qualche obiettivo buono, ma tranne il movimento buste paga della mia azienda non trovavo altro. Chi lavora in fabbrica ha poche occasioni di veder girare soldi. Le banalità della vita quotidiana nel mio lavoro in fabbrica, delle discussioni con amici e compagni cominciavano a darmi fastidio. Finalmente ci ritrovammo. La discussione fu approfondita e a tratti burrascosa. Danilo propose parecchie iniziative, sequestri, furgoni Fiat, gioiellerie e altro. Piero si oppose. Non siamo pronti, non siamo all'altezza per ora di fare azioni complicate. C'è il rischio di ammazzare qualcuno. Il furgone ha sempre poliziotti armati. Bisognerebbe uccidere a freddo oppure rischiare di essere uccisi. Non va bene per noi. Non siamo criminali. Ricordiamocelo sempre. E qui ebbe tutta la mia approvazione. È vero. Non dobbiamo e non dovremmo mai ragionare e agire come delinquenti comuni. Loro cercano l'interesse personale, noi cerchiamo altro, ben altro. Pietro aggiunse, i gioiellieri è vero che fanno tanta grana, ma c'è il problema del ricettatore e poi i gioiellieri si comportano male in genere. È roba loro, reagiscono, tocca sparargli. Insomma, quasi litigammo. Poi Piero propose il suo piano. Attacchiamo le banche. Sono il simbolo del capitale finanziario. Sono i mostri anonimi e potenti e poi c'è da affrontare degli impiegati. Loro staranno buoni e noi non gli faremo del male. Sarà più facile spiegarsi con loro. Anch'essi sono degli sfruttati. E poi per rapinare una banca non occorrono basisti. Vi ricordate, vero? Quello che abbiamo rischiato alla Fiat per via delle indagini e non occorrono ricettatori. Nessuno penserà a noi, penseranno alla malavita e che ce ne importa. Non diremmo certo chi siamo, a cosa servono i soldi. Lasciamo pure che pensino a dei rapinatori qualsiasi, a dei pregiudicati. Noi lavoreremo sul sicuro, capite? Alla fine accettammo questa tesi. Piero portò tanti e tali argomenti che non fu più possibile contraddirlo e io ero perfettamente d'accordo con lui. Danilo presentava progetti così elaborati che in fondo risultavano irrealizzabili, almeno per le nostre esigue forze. La linea generale d'azione era definita. Essa era buona come inizio, purtroppo portava in sé dei difetti, l'impostazione, che sarebbero stati la causa del nostro fallimento. Non saremmo riusciti a liberarci di questi difetti fino alla catastrofe. Una cosa comunque era ormai certa. Era ora di rompere i ponti dietro di noi. Dedicammo il periodo di tempo successivo a riprendere familiarità con il lavoro clandestino. Tornammo sulle colline torinesi a provare nuove armi reperite da tempo da Danilo. Provammo a toccare altre macchine, le prime volte con indecisione e timore, poi sempre più sicuri. Le armi usate per l'assalto alla Fiat erano state distrutte. Ora avevamo roba migliore. Solo i colpi erano il punto debole. In genere erano vecchiotti. C'era sempre il rischio che facessero cilecca. Ogni tanto capitava durante gli addestramenti. La cosa era molto grave. In caso di conflitto con la Pula, un intoppo del genere poteva significare lasciarci la pelle, ma non c'era niente da fare. Per trovare colpi nuovi, specie quelli calibro 9 lungo, per il mitra occorreva tanta grana, non per il prezzo delle pallottole, ma per essere sicuri di non correre rischi. Noi sapevamo dove trovarne, a un prezzo onesto, ma disonesti sono i venditori. Chiacchierano troppo, in genere anche dove non è necessario. In caso di fatti gravi, il primo posto dove va a pescare la polizia è proprio in quel sottobosco. Tra i ricettatori, le puttane, gli sfruttatori, gli omosessuali e tutti quelli che vivono ai margini, tra la mala e la madama, pronti a servire e ad inculare l'una e l'altra, se capita l'occasione e se si trovano a mal partito. Pericolosi come la peste, ne conoscevamo molti in barriera e altrove, ma non servivano. Meglio far fare tutto a Danilo. Lui sapeva dove trovare la roba che occorreva senza farci correre il minimo rischio, ma ci voleva tanta, tanta grana. Era tutto un lavoro tortuoso, un lavoro in cui Danilo era un maestro, era davvero in gamba in certe cose. Sapeva presentarsi in modo da ingannare chiunque, sempre sicuro di sé, deciso, brillante. Ad Aosta frequentava un bar dove di solito ci andavano poliziotti e carabinieri, con alcuni aveva rapporti di conoscenza e si divertiva a mondo a star lì in mezzo a prenderli per il culo a loro insaputa. Proprio per le sue qualità e le sue conoscenze, certi incarichi li svolgeva sempre lui. Diffidiamo solo di un certo ambiente, diceva sempre, quello della mala. Sono tutti rifiuti, gente che non vale un soldo. Non eravamo del tutto d'accordo, io e Piero. È vero che il sottoproletariato è infido, amorale, tuttavia non bisogna generalizzare. Noi stessi ne avevamo conosciuti alcuni che avevano dato prova di lealtà e coraggio, e anche di onestà, proprio fra coloro che la società butta ai margini. Però tra di noi si faceva solo quello che era deciso di comune accordo, niente iniziative individuali. L'orientamento fu quello di scartare la mala. Adesso ci attenemmo tutti, sino alla fine. Anzi, ognuno di noi mollò qualsiasi legame, anche indiretto, con vecchi amici che navigavano male o che potevano essere involontariamente un pericolo. In fondo fu una saggia decisione, forse non avremmo durato a lungo diversamente. Prima o poi qualche tira della madama avrebbe intuito qualcosa e fatto la soffiata. Fu giusto evitare ogni legame con gente che apparteneva a un mondo che non era il nostro. Il mondo dei night, dei casinò, delle puttane, delle camere di sicurezza, delle belle macchine, dell'infingardaggine più sguaiata delle bische clandestine. Anche prendere le macchine e tutto il resto, però, era un mestiere che esigeva una certa tecnica. Se non avevamo con noi dei ladri di professione, dovevamo impararlo da soli. Una sera andammo a prendere una macchina. Eravamo tesi, nervosi. Poi ci avremmo fatto il callo, ma sarebbe stato sempre più duro che fare la rapina. Eravamo armati, in formazione da combattimento. Se arriva la madama si spara, ripeté Danilo. Non mi lascio prendere io. Lo capivo, non eravamo dei ladri. Per noi rubare era difficile. Non era la paura di qualche mese di galera. Tentato furto o furto d'auto, incensurati, si rischiava poco. Era la riluttanza a farci prendere come dei ladruncoli. Non avremmo potuto spiegare niente e coi compagni avremmo fatto una figuraccia. Ci avrebbero sputtanati, non che ci preoccupassimo dei ben pensanti, ci preoccupava solo l'opinione che di noi si sarebbero fatti compagni buoni e onesti. E poi la posta in gioco era ormai troppo grossa. Prendemmo la macchina, tutto andò bene, eravamo sempre sincronizzati nei movimenti. Facemmo un giretto, la rimettemmo al suo posto. In quel periodo lasciai definitivamente ogni incarico e attività del partito. Ci sono due modi per lasciare il Partito Comunista, mi dicevo. Quello di passare dall'altra parte, più o meno apertamente, diventando servi dei borghesi, oppure rompere ogni compromesso, imbracciando il mitra. Sapevo infatti quale delusione e rabbia provi quando deponi tutte le speranze in uomini di partito e te le vedi sfumare senza possibilità di uscirne. E sapevo anche che continuare in fabbrica senza legami col partito e col sindacato equivaleva a sistemarsi. Era fatale. L'impegno si sarebbe allentato e i problemi della vita che premevano sempre di più avrebbero assai presto avuto il sopravvento, col risultato, dopo un po' di tempo, di trasformarmi in un qualunquista di merda. Dopo qualche tempo Danilo se ne andò in Svizzera. Aveva trovato un buon lavoro per la sua squadra di carpentieri. Promise che sarebbe tornato appena ci fosse stato bisogno di lui. Ci furono alcune discussioni in merito, anche perché egli accennò a un certo punto alla possibilità di rinviare tutto. Si era deciso che il primo assalto l'avrebbero fatto lui e Piero. Io avrei appoggiato solo in caso di necessità. Si pensava di attaccare in un paesetto. La partenza di Danilo scombussolava tutto. Noi non avevamo, come lui, un'esperienza partigiana alle spalle. Non ci fidavamo troppo di noi stessi. Comunque ci incontrammo ancora alcune volte, Piero ed io. Pensammo di rimandare tutto fino al ritorno di Danilo, ma ormai le cose erano troppo avanti. Capimmo che se avessimo rinviato ancora la decisione sarebbe sfumata, e poi eravamo in una condizione psicologica che non ci permetteva di sopportare continui rinvii. La ricerca dell'obiettivo ci aveva preoccupati un poco in precedenza. Eravamo andati a fare alcuni giri in provincia, un po' dappertutto, specialmente loro due. Si erano mossi, conoscevano molto bene le zone. Danilo era propenso ad agire in un paese. Ci sono meno rischi, diceva. In città è troppo pericoloso. A Torino conosciamo molta gente. Poi ci si deve affidare troppo al caso. È facile che succeda una sparatoria. Ci sono troppe volanti in giro. Se qualcuno telefona mentre cominciamo l'azione, hanno tutto il tempo di piombarci addosso. Piero avrebbe preferito operare in città, ma purché si agisse era pronto a tutto. Questo era successo prima che Danilo saltasse fuori con i suoi impegni. A questo punto le cose precipitarono. Piero si incazzò, sosteneva che le azioni di questo tipo vanno fatte col tempo favorevole, cioè quando si può girare con un soprabito, il cappello e i guanti, senza essere guardati come tipi strani. Bisogna affrettarsi, se viene l'estate dobbiamo rinviare tutto, ripeteva. L'intoppo causato da Danilo lo irritava moltissimo e più o meno inconsciamente andò convincendosi che è impossibile fare attività illegale se si è impegnati in un lavoro fisso in fabbrica o altrove. Alla fine del mese ci licenziamo tutti e due. I ponti finalmente erano bruciati. La liquidazione ci avrebbe permesso di stare qualche giorno tranquilli, dedicandoci completamente alla preparazione. Telefonammo in Svizzera a Danilo con toni volutamente drammatici. Molla tutto e vieni giù. Siamo sul piede di guerra, disoccupati e totalmente disponibili per l'azione. Venne a Torino dopo un paio di giorni. Ci trovammo la sera in bottega da Natale. Ci guardammo bene in faccia. C'era un po' di tensione. Piero attaccò. Senti, capisco i tuoi impegni, ma finora sei sempre stato tu a spingere. Ora la macchina si è messa in moto e non si ferma. Io e lui ci stiamo dando da fare. Ci siamo anche licenziati, capisci? Sono lento a decidermi, ma quando una cosa è cominciata vado fino in fondo e non mi importa più niente di quel che puoi obiettare. Dovevi pensarci prima. Tirò fuori le armi. che aveva tenuto in consegna dall'assenza di Danilo, le mise sul bancone, pulite, allineate, luccicanti, facevano quasi impressione. Adesso basta, o butto via tutto, e se non ti decidi andiamo io e Sante da soli. La parte era stata preparata per provocare Danilo, il quale reagì. Voi avete tutte le ragioni del mondo, io non ho mica cambiato idea, Cristo. E lo sapete benissimo che sono deciso ad andare fino in fondo. Questo gruppo è anche opera mia e ci tengo, cosa credete? Però sapete anche perché sono andato in Svizzera. Avevo preso un impegno preciso già da tempo ed era giusto prenderlo. Si tratta di guadagnare per vivere. Non posso certo fare il rapinatore per lucro e di avere una copertura. Ora, se il lavoro è arrivato al momento sbagliato, non potevo rifiutarlo, vero? Piuttosto cerchiamo di arrivare ad una soluzione costruttiva. Praticamente si era convinto, era naturale, le sue insistenze erano dovute a intralci temporanei, non a una discordanza di fondo. Anzi, era lui stesso che aveva insistito perché si passasse all'azione. Piuttosto, disse, quando si tirarono le somme, io posso stare solo un paio di giorni a Torino. Cosa possiamo fare in un tempo così ridotto? Ci fu una lunga discussione sugli aspetti tecnici e organizzativi. Andare a controllare in provincia i posti e le strade non era possibile, con un solo giorno di tempo. Piero ne approfittò per riproporre un'azione in città. Conoscevamo Torino come le nostre tasche ed erano ormai mesi che si studiavano le diverse banche. Non c'era che da scegliere. Tutto era previsto ed escogitato nei minimi particolari. Danilo non fece obiezioni. Ci ritrovammo il giorno dopo. Era il 7 aprile 1963. Piero arrivò con una vecchia auto fattasi prestare da un amico. Guidò Danilo. Vai a Mirafiori, disse. E in un paio d'ore saremmo in condizioni di sapere. A Torino tutto sarebbe stato più semplice. Anche se più rischioso. Era la nostra città, ne conoscevamo le vie, le piazze, le linee tranviarie, le dislocazioni della polizia. Se c'erano molti pericoli, c'erano anche molti vantaggi. Ad esempio, non saremmo mai stati imbottigliati in qualche via senza uscita, in caso di inseguimento. Non ci saremmo mai persi e neppure infognati in quartieri in cui saremmo stati in svantaggio. Arrivammo in zona. Danilo scherzò. Anche stavolta c'è la Fiat vicino. Chissà, porterà buono? E poi, solo a vederla, mi sento montare la rabbia. E questo è buono, no? Poterci saltare dentro col mitra. Entrammo in un lungo viale, con al centro i binari della ferrovia, quella che andava direttamente alla Fiat, via Onorato Vigliani. È qui, disse Piero, indicando una fila di portici in una serie di casoni nuovi. Ognuno per proprio conto andammo a passeggiare sotto i portici. Istituto San Paolo di Torino, l'insegna era questa. La banca era situata bene, guardammo l'interno, non c'era neppure bisogno di entrare per vedere tutto il movimento. Di fianco c'era un ufficio postale, ma non avrebbe dato fastidio. Risalimmo in macchina. Per noi andava bene, decidemmo in quel momento. Osservammo ancora alcuni particolari, poi Piero indicò a Danilo il percorso migliore per la fuga. Lui aveva già studiato bene la cosa, per conto suo. Rifacemmo la strada parecchie volte. Vennero compiute alcune variazioni. Provammo a tornare davanti alla banca, simulando esattamente le mosse che avremmo dovuto compiere. Tutto filava liscio. Al pomeriggio ritornammo, ripetemmo la prova ancora una volta. Nessuno ci aveva notato. L'ora era quella giusta. Controllammo anche il traffico per la strada e, grosso modo, se ci fosse affollamento di pedoni sotto i portici. La sera andammo a fare ancora un po' di esercitazione sull'uso delle armi e tornammo alla fine al laboratorio di Natale, dove loro due si fermarono per preparare il sacco, le maschere, pulire le armi e tutto il resto. Quella notte dormii poco, ero nervoso. Tutte le discussioni mi avevano scosso e poi dalla precedente azione erano passati 4 anni. Ero fuori esercizio. Ero più anziano, più maturo. Se da un lato era positivo perché ero meno impressionabile, più sicuro di me stesso, dall'altro riflettevo di più su quanto fosse arrischiato il nostro piano. Era la mia prima banca. Agire in pieno giorno in città con un margine di sicurezza ridottissimo in certi movimenti mi appariva un'impresa da disperati. Mi dava coraggio il pensiero che non ero più un novellino, che Danilo, nonostante i suoi dubbi, nell'azione era efficientissimo. E poi c'era la decisione ferma che avevo visto in Piero, che mi rassicurava. Il giorno successivo ci trovammo alle 13. La giornata era bellissima, non c'era molto sole e non faceva molto caldo. Un vento leggero scendeva dalla Val di Susa. È una giornata in cui sarebbe duro morire. Proprio questo mi ricordo di avere pensato. Salimmo sull'auto di Danilo. L'aveva presa in prestito per l'occasione. Ci dirigemmo verso la zona Mirafiori. Lasciammo la macchina parcheggiata. Io mi appostai a portata d'occhio. Loro due cominciarono a gironzolare a piedi. Alla fine trovarono una macchina che andava bene. Mi chiamarono, mi piazzai a una ventina di metri da loro, in un punto dal quale potevo vedere bene tutta la strada, la nostra macchina e loro due. Sarei dovuto intervenire solo in caso di guai seri. Mi sarei avvicinato come un qualsiasi passante, colpendo alle spalle l'eventuale aggressore. Ma era molto improbabile che questo accadesse. Loro avevano visto arrivare la macchina, il proprietario era sceso. Lo avevano osservato bene, era entrato in un portone. Gli diedero un po' di tempo, poi Piero lo seguì, controllò a che piano era andato l'uomo con l'ascensore. Uscì, venne a dirmelo: fai attenzione al quarto piano. Tornò dentro, andò a bloccare l'ascensore mentre Danilo attaccava la macchina. Un colpo col martello di gomma sul pulsante della maniglia. E si aprì subito. Entrò, provò con lo spadino che aveva imparato a usare e riuscì a fare l'avviamento. Era passato mezzo minuto in tutto. Due colpi di acceleratore, il segnale per Piero. Uscì dal portone, salì sulla macchina, si allontanarono. Era fatta, l'azione era stata accuratissima in ogni minimo dettaglio. Questo sarebbe stato sempre il nostro metodo di lavoro. Tornai vicino alla nostra macchina, che non avevo mai perso di vista. Sopra c'era il mitra. Non potevamo correre il rischio di farcela rubare. Dopo un quarto d'ora arrivò Piero, prese il volante. Accidenti, non c'è benzina, dobbiamo andare a prenderla. Un'esperienza anche questa. Bisognava non farsi notare e non potevamo rimandare tutto e andare in un'altra zona. Facendo benzina, lì vicino ci avrebbero notati e quando il giorno dopo i giornali avrebbero strombazzato la rapina, il benzinaio avrebbe potuto ricollegare i fatti e dare informazioni precise. Allora decidemmo una manovra un po' macchinosa. Piero puntò verso Corso Stupininci. Superammo la macchina rubata. Danilo ci venne dietro. Dopo un paio di chilometri cominciavano i prati, i boschetti, il greto del Sangone. Danilo entrò in una stradina di campagna. Noi ci fermammo sul ciglio della strada più in là. Scesi e andai a piedi a un distributore che avevamo superato da poco. Presi una latta con 5 litri di benzina. A piedi raggiunsi Danilo, che intanto aveva aperto il tappo del serbatoio col seghetto. Tutto a posto. Versato il carburante, salii con lui e ritornammo in zona. In corso Agnelli. Piero parcheggiò la macchina, scese con il pacco del materiale, ci raggiunse. Questi movimenti erano sempre fatti con estrema cautela, tenendoci a notevole distanza in modo che nessuno osservatore potesse collegare la macchina buona con quella usata per l'azione. Si era fatto tardi, si avvicinava l'ora di chiusura. Mentre Danilo si dirigeva verso la banca, ci preparammo. Lui si era già preparato durante l'attesa di Piero. Ogni gesto che poteva impegnare i movimenti o assorbire l'attenzione veniva sempre compiuto a turno, per non trovarci contemporaneamente impediti o distratti. Lentamente arrivammo sul posto. Una cinquantina di metri prima della banca scese Piero. che sotto il soprabito portava il mitra. Si infilò sotto i portici e venne avanti a piedi mentre Danilo andò a fermarsi una decina di metri dopo l'obiettivo. Scendemmo. Io rimasi vicino alla macchina, dovevo guardare se arrivava la madama e se c'era qualche altro intoppo. Li vidi giungere davanti alla porta contemporaneamente. Danilo la toccò, era già chiusa, mi prese un accidente. Eravamo arrivati troppo tardi, vidi Piero e Danilo guardarsi esitanti, poi Danilo picchiettò leggermente sui vetri. C'era un bimbetto nella banca. Guardò Danilo, capì cosa voleva, alzò il fermo che era stato messo all'interno per bloccare la porta. Entrarono, prima Danilo e poi Piero. Sul marciapiede c'era pochissima gente, nessuno si accorse di nulla, solo un giovane vicino a me spalancò la bocca e rimase come impietrito, senza muoversi, fino alla fine. Forse aveva intuito, nell'attimo in cui erano entrati loro due, avevano tirato sui bavagli e magari a quel tizio non era sfuggito il gesto. Dopo un mezzo minuto risalì in macchina. Di lì potevo vedere la strada e tenere d'occhio sia quel tizio che la porta della banca. Passarono ancora un minuto o due, interminabili, poi uscirono. Piero avanti, col volto mascherato e il mitra in mano. Danilo dietro col sacchetto dei soldi. C'era solo una donna lì fuori. Quando si vide i miei compagni davanti, rimase paralizzata, con gli occhi sbarrati. Spalancai la portiera, balzarono sopra. Danilo alla guida, Piero sui sedili posteriori. Partimmo con calma, tagliammo subito a sinistra, poi a destra, attraverso via Nizza e via Genova. Nel frattempo ci rimettemmo a posto, facemmo sparire tutto in due sacche sportive, soprabiti, cappelli, armi, scesi in via Genova, pulito. Presi un paio di tram e arrivai a casa. Seppi poi che loro due avevano parcheggiato l'auto in una viuzza a Mille Fanti ed erano tornati tranquillamente in barriera di Milano. Avevamo atteso che Natale chiudesse bottega, poi si erano messi a fare lo spoglio di tutto, scaricate e ingrassate le armi, bruciati gli impermeabili, i cappelli e il resto, distrutti gli assegni e gli altri documenti. Il ricavato superava i 5 milioni. Danilo tornò a prendere la macchina e la restituì, poi ripartì per la Svizzera. Tutto era finito, o era appena cominciato. Avevamo imboccato una strada senza via d'uscita, anche se non ce ne eravamo accorti subito. Per altri 4 anni e mezzo, sino alla fine, non ci saremmo più svincolati da un orientamento sbagliato. Parecchie volte ci furono lotte, ripensamenti, discussioni tra noi, tentativi di dare una svolta alla nostra azione, ma per tutta una serie di circostanze non ci riuscimmo perché era proprio l'impostazione iniziale a contenere in sé il difetto, l'errore che avrebbe avuto il sopravvento su tutto, anche sui progetti politici. Se avessi avuto l'esperienza attuale, esperienza diretta e specifica di attività clandestina, delle sue caratteristiche e pericoli, avrei capito subito. Dopo l'azione di Via Vigliani, che in questo modo si stava sbagliando tutto. Sarebbe stata infatti quell'attività frenetica e legale a sballarci tutti quanti dalle idee iniziali, a ridurre progressivamente tutto a una sfida mortale tra noi e la polizia, a costringerci a una clandestinità che sconfinava con la paranoia, facilitando il distacco con amici e compagni. Dal punto di vista tecnico, naturalmente, tutto era perfetto, tutto era andato liscio, nessuna traccia, la polizia si dibatteva nel buio. L'azione dentro la banca era stata veloce e precisa. Un tizio, padrone di fabbrica, aveva voluto fare il furbo. Piero l'aveva toccato alla milza con la canna del mitra, come era solito fare, e quello s'era squagliato. Poi il mio compagno aveva anche spaccato un vetro. Avevano notato l'effetto agghiacciante del rumore dei vetri che si spaccano. Fai attenzione a non tagliarti stavolta, gli aveva detto Danilo, ricordandosi che alle ferriere, facendo lo stesso lavoro, si era graffiato un dito. vacci piano con meno foga e tieni la mano sinistra sul caricatore. Avevano compiuto anche un gesto gentile. Era stata un'improvvisazione. Entra una ragazzina, ha del denaro in mano. Resta lì come una statua. «Di chi sono sti soldi, tuoi?» dice Piero. Quella annuisce con un cenno del capo. «Beh, tienili allora». E glieli rilancia sotto lo sguardo divertito di Danilo, che gli sta di faccia dall'altra parte del bancone, e si dà da fare coi cassetti. L'azione dunque era andata bene, le indagini si arenarono in pochi giorni. Nessuno pensava a noi. La settimana dopo andavo a fare lo scrutatore per il PC in un seggio elettorale. I risultati furono i soliti, le solite vittorie e sconfitte, 1000 voti in più da una parte, 1000 voti in meno dall'altra. Ma ormai questo non era più il mio mondo. Avevo accettato solo perché mi ero impegnato in precedenza. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.